La versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buongiorno cari ascoltatori del 24, 16:31 primi e 18 secondi, in diretta qui dai studi di Milano del 24, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, che cioè radio24.it per proporre temi. Anche oggi ovviamente la puntata è pressoché dettata dallo scandire un giorno sì un giorno no di questi nuovi attentati, sinistro rumore perché ho mosso il microfono, scusatemi, che avvengono oramai disseminati nel cuore dell'Europa, tra Francia, la Germania, e dopo Nizza, Monaco, Würzburg. Stamattina avete sicuramente saputo di quanto è avvenuto alle 9:43 in una chiesa di un paese poco fuori Rouen, questo episodio che ha visto due islamici entrare in chiesa, sgozzare un prete, essere poi abbattuti dalle forze dell'ordine che sono intervenuti. E a questo punto la domanda che vi faccio, cari ascoltatori, per intervenire all'800240024 e di darci la vostra opinione su un punto preciso. Perché tutti i tragici atti di terrorismo che hanno colpito i diversi paesi europei, dal Charlie Hebdo, Bataclan, Nizza e così via, nella loro diversità, la prima ondata vere e proprie cellule di fuoco di gente che aveva fatto esperienza nel Daesh, in Siria, eccetera, eccetera, poi evolute con personalità singole che aderiscono al franchising e magari si fanno vive all'ultimo secondo con qualcuno per armi e vengono poi riconosciute da Daesh. Però detto tutto questo, nella disparità dei luoghi e delle situazioni colpite dagli attentati, ricordiamolo, gli stadi, concerti, sede di giornali satirici, la promenade d'Anglais e così via, non c'era mai stato un luogo di culto cristiano e cattolico. Questa volta c'è non solo l'attacco a un luogo di culto, c'è un prete ucciso, e la domanda che vi faccio è: da quello che capite voi, immaginate voi, oppure come pensate voi, è un'ulteriore escalation? Questa volta siamo all'attacco dei simboli della nostra religiosa cultura, che, da cui sono fitte le radici della nostra civiltà europea e occidentale, perché di questo si tratta, al di là della fede, in realtà questo è. Siccome a molti è risultato difficile in maniera crescente in questi anni inquadrare il fenomeno della dimensione veramente religiosa del terrorismo islamista, prima nella versione qaedista, adesso in questa di Daesh, questa novità è una novità comunque molto significativa. Io vi chiedo la vostra opinione, e proprio su questo aspetto abbiamo scelto un ospite che, per gli studi che ha condotto l'intera vita, l'intera vita significa che si è dedicato soprattutto per i suoi studi di storia medievale ai rapporti nei secoli passati tra cristianesimo e Islam nel Mediterraneo e non solo, sia per quante volte si è occupato di storia cristiana e cattolica, ha una particolare professionalità e competenza, oltre che un particolare personalissimo punto di vista, per darci la sua opinione oggi, a poche ore di questo tragico fatto, di cui naturalmente poi noi non abbiamo ancora tutti gli elementi in possesso, e questo ci penseranno gli investigatori, al di là del commento di Hollande, eccetera, eccetera. Allora, è con noi il professor Franco Cardini, che insegna storia medievale all'Istituto Italiano di Scienze Umane. Io lo ringrazio perché so che sta facendo un'altra cosa, quindi si è ricavato 10 minuti per stare con noi. Buon pomeriggio e grazie, professore. Grazie, salve. Sto facendo la stessa cosa, ma in ambienti e in situazioni diverse. Insomma, perché ormai questa cosa ha sconvolto nel piccolo, ha sconvolto anche la mia giornata, naturalmente, tanto più che era appunto dedicata a questi temi. Ma anzitutto, evidentemente, quando le cose si fanno serie e gravi, è il momento di stare calmi. Questo sembra paradossale, perché è così, è una regola umana a star calmi quando tutto va bene o quando non succede niente, siamo capaci tutti. Quando si comincia a sentirsi sul serio in ballo, allora bisogna stare attenti a non sbagliare, a non sbagliare nemmeno una mossa. E il primo errore in generale, prima che non sul piano dell'azione o della reazione, avviene sul piano della diagnosi. In questo caso la diagnosi è particolarmente delicata perché, per un verso, tutto sembrerebbe chiaro alla luce del sole. Questi a questo punto hanno attaccato al cuore la fede che secondo loro sarebbe il centro della modernità occidentale. Il califfo continua a chiamarci i crociati. Ora, io credo che il califfo e i suoi consiglieri conoscano la situazione nostra occidentale, anche perché molti di loro hanno studiato, lavorato in Occidente, la conoscano molto meglio di quanto non vogliono far credere, e quindi loro sanno benissimo che in realtà l'Occidente non è più cristiano da molto tempo. Ci sono i cristiani in Occidente, senza dubbio, sono anche molti magari, ma non è più una cristianità. E questa è la falsità di fondo su cui si fonda la propaganda jihadista, che è una propaganda efficace perché si rivolge a un mondo che è quello dell'amplissimo sottoproletariato musulmano sunnita. Vorrei ricordare a chi non ha ancora chiaro queste valutazioni quantitative che i musulmani sono 1.600.000.000 di persone in tutto il mondo, e naturalmente i jihadisti vogliono far credere a questi musulmani. E non c'è dubbio che dal vicino Oriente fino all'Indonesia o all'Africa profonda troveranno un uditorio, lo stanno già trovando, un uditorio permeabile a questo, che noi siamo dei cristiani, che non siamo ancora dei cristiani, che la nostra è ancora una cristianità. Con tutto questo è evidente che anche se la cosa, a me cattolico personalmente la cosa mi tocca e mi offende profondamente, questa cosa di oggi, ma anche quelli di noi che fossero laici, che non fossero credenti, eccetera, sentono che è un attacco alla nostra cultura, se non altro, come diceva irreprensibilmente lei, perché insomma si può piacere o non piacere, le nostre radici stanno lì. Ora, ci ho premesso, siamo davanti a un passo in più nell'escalation di una strada ben disegnata nelle intenzioni tattico-strategiche, quindi appunto proprio quello che si esprime con la parola inglese escalation, oppure siamo davanti a un'eccezione, a una deviazione, alla follia di qualcuno che magari è, o come più spesso succede, si sente, si crede, si ritiene un soldato politico del Daesh, e a questo punto ha creduto di far cosa gradita al Daesh, e sicuramente gliel'ha fatta in pieno, non tanto perché il califfo al-Baghdadi sia particolarmente, odi particolarmente i cristiani, non ci metterei la mano sulla pietas religiosa del califfo, e comunque non sarebbe un atteggiamento musulmano. Storicamente i musulmani nei confronti dei cristiani hanno sempre avuto un atteggiamento diverso, anche nei momenti di guerra, però certamente in questo momento il messaggio che si manda è molto preciso: si vuole attaccare i simboli della fede. Ora, attaccare i simboli della fede vuol dire far qualcosa davanti alla quale il mondo cristiano, il mondo occidentale non può rimanere più indifferente. Fra l'altro vorrei sottolineare che sia che si tratti di due, diciamolo come le avrebbe detto Jung, di due soldati politici fanatizzati, ma che sanno quello che fanno e vogliono ottenere qualcosa. Che cosa vogliono ottenere? Evidentemente vogliono ottenere una risposta la più dura possibile da parte degli occidentali. Hanno scelto la Francia anche perché sanno che il governo francese è incline a dare risposte anche non sempre equilibrate, come quella che dette il presidente Hollande alcuni mesi or sono, bombardando indiscriminatamente Raqqa e quindi regalando 4.000 famiglie, perché tanti morti fecero, 4.000 famiglie che non amavano certamente il califfo, a simpatie califfali. E loro vogliono far questo, loro vogliono ottenere risposte il più possibile, per dirla come l'ha detto il presidente Sarkozy, spietate. Ma la risposta spietata raramente anche una risposta intelligente. Qui non servono risposte spietate, quindi, anche perché noi occidentali nel nostro DNA culturale forse la spietatezza ce l'abbiamo, ma almeno a livello teorico non l'abbiamo mai riconosciuta come tale. Noi vogliamo mantenere la nostra identità, vogliamo mantenere la nostra identità di cultori dello Stato di diritto e quindi di rispettosi dell'umanità in quanto tale. Qui bisogna dare risposte non spietate, ma severe, serie e, aggiungo, se si dovessero dare delle risposte corrette, bisognerebbe cominciare col chiamare in causa in primissima linea le comunità musulmane in Occidente, perché fra l'altro sono loro le prime colpite. Sono le prime colpite dall'odio o dal rancore o dalla perlomeno dall'antipatia che ancora di più le circonderà dopo questo episodio. Sono loro che sono colpite perché come comunità minoritarie devono subire il contraccolpo di una cosa di questo genere. Non dimentichiamo che la lotta del califfo è anche una lotta contro una parte dell'Islam. Intanto c'è la fitna antisciita. Noi non dobbiamo dimenticare, lei ha fatto un'ottima organizzazione dei fatti di Rouen all'interno dei fatti simili, anche se forse meno gravi, che sono accaduti nei giorni scorsi, ma non dimentichiamo che intanto c'erano le centinaia di morti sciiti di Baghdad, certo. C'erano le centinaia di morti azari, anche loro sciiti a Kabul. Lei fa bene a ricordarlo, perché ricordiamo, scusi un secondo, lo dico per informazione, sì, ai nostri ascoltatori, dall'inizio di giugno, andate a vedere il sito del Corriere se volete approfondire, dall'inizio di giugno, quindi in 55 giorni, questo è il 15° atto terroristico con vittime che, ricondotto da chi lo compie a Daesh, è riconosciuto da Daesh, avviene nel mondo, ma andate a vedere in quante parti del mondo, oltre che in Europa, e il bilancio delle vittime che c'è stato in Iraq, in Afghanistan, contro le azeri e così via. Questo per avere un'idea della dimensione complessiva di questo fenomeno e non pensare solo al nostro ombelico. Non sto sottovalutando niente di quello che sconvolge l'Europa, sto dicendo che bisogna avere un occhio al fenomeno per quello che è. Mi scusi, sono interrotta. No, ma lei ha ragione perfettamente, non solo rincarerei ancora la dose mettendoci un tassello in più. Attenzione anche alle complicità indirette, perché mentre i sunniti dell'ISIS, non tutti i sunniti naturalmente, ma i sunniti dell'ISIS, che forse appoggiati a qualche stato sunnita, ma preferisco non far nomi in questa sede, stanno facendo la fitna, la guerra civile contro gli sciiti, e vi sono stati musulmani che li stanno, senza dirlo, li stanno fiancheggiando. Il governo sunnita del Bahrain ha messo fuori legge e sta mettendo in prigione i rappresentanti del partito di opposizione, l'unico partito di opposizione che guarda caso è rappresentante dell'etnia sciita, sì. Che all'interno del Bahrain è fortissima. Quindi siamo davanti veramente a una situazione di guerra civile generalizzata. Però, certo, professore, mi dica una cosa, lei prima ha citato chiamare in causa, ha detto, le comunità musulmane qui in Europa e in Occidente. Come, secondo lei? Vanno interpellate direttamente, vanno sollecitate a uscire dall'ambiguità se ne hanno. Io, guardi, insieme ad alcuni amici, fra cui ne cito soltanto uno, se no sembra la lista della lavandaia accademica, il professor Paolo Branca dell'Università Cattolica di Milano, è l'arabista e l'islamista dell'Università Cattolica, abbiamo fatto un libretto, io francamente ho fatto poco, solo l'introduzione, la parte scientifica l'hanno fatta loro, che è intitolato L'Islam Plurale, è uscito in questi giorni dalla guida editrice di Napoli, dove noi ci siamo divertiti a mettere in fila tutti i casi in cui all'interno dell'Islam si sono fatte manifestazioni contro il terrorismo, convegni contro il terrorismo, pubblicazioni contro il terrorismo, annate di giornali o cose del genere, sempre tese a questa condanna. Noi sappiamo più o meno, ma l'abbiamo piuttosto sottovalutata, i nostri media non ci hanno dato molta importanza alla condanna nettissima che ha espresso l'Università di Al-Azhar. Noi diciamo università, ma non dimentichiamo che si tratta di una madrasa musulmana, di un ente teologico e giuridico che, in mancanza di chiese, nell'Islam purtroppo non c'è chiese, e quindi vallo a sapere che cos'è l'Islam nel suo complesso, però l'Università di Al-Azhar ha l'autorità di emettere delle fatwa, e ha emesso sotto forma di fatwa una condanna irremissibile e molto chiara nei confronti del califfo. Ora, tutte queste cose noi siamo portati, naturalmente, poi sì, ci sono quelli, e tutte le volte sento la parola Islam o la parola Maometto, vedono rosso, e questo è un altro discorso, ma in generale noi siamo come società ormai prevenuti nei confronti di questo, ecco, quindi è comprensibile che ci sfuggano un po', che minimizziamo o relativizziamo un po' troppo queste cose, ma all'interno dell'Islam queste voci ci sono. Però attenzione, mi diceva un imam proprio 3 o 4 giorni fa, tutte le volte che noi facciamo una richiesta per fare per esempio una manifestazione anche modesta, non all'aperto perché non abbiamo i numeri, ma magari in un teatro, in un ambiente, anche magari in un ambiente parrocchiale che ci viene prestato, contro il terrorismo, dalle prefetture e dalle questure ci rispondono di no per ragioni di ordine pubblico. Quindi ci può essere senza voler tarpare le ali o tappare la bocca a nessuno, ci possono essere anche questi meccanismi che impediscono che noi ci riconosciamo fra noi e i nostri anche compatrioti musulmani, e lasciando perdere i musulmani che vengono da chissà dove, che sono diventati cittadini italiani, non parlo naturalmente dei richiedenti asilo e nemmeno tantomeno gli abusivi. E noi abbiamo almeno 1600 cittadini italiani col più chiaro pedigree italiano, che non hanno nulla di arabo, di turco, di afghano, roba di questo genere, che si sono convertiti all'Islam. Cosa facciamo? Sono 1600 cittadini, non sono molti, ma che gli neghiamo i diritti civili perché hanno scelto una religione, in questo momento è fatalmente un po' sotto tiro. Bisogna stare molto attenti in questo caso, cioè da un lato è umanissimo che la casalinga di Voghera o il maestro di Vigevano, uscendo la mattina, trovano il musulmano che sta sul loro stesso piano, nell'appartamento accanto, e lo guardano un po' con sospetto, con antipatia, o non rispondono volentieri al saluto. Ma tutto questo è umanissimo. Dall'altra parte però le cose umane si possono anche correggere. Noi dobbiamo, anche per saggiare la loro buona fede quando dicono certe cose, noi dobbiamo coinvolgerli in prima fila, perché altrimenti pensiamo al sottoproletariato musulmano, che è numerosissimo, specialmente nelle prigioni o nelle banlieue o nei nostri quartieri periferici. Pensiamo alla sollecitazione che può venire dal fatto che il califfo sbraita, il califfo ammazza, e noi come unica risposta diamo a tutto questo un anti-islamismo generalizzato, generico, magari perfino duro, perfino violento, ma sempre generico. Tutti i musulmani sono uguali, il miglior musulmano è un musulmano morto. Ecco, bisogna uscire da questa logica, anche perché insomma i musulmani sono 1.600.000.000, sarebbe un bel guaio se fossero tutti d'accordo col califfo, mentre devo dire che le statistiche che ci danno gli studiosi sono confortevoli, insomma, questa gente non arriva tra simpatizzanti e fiancheggiatori a più di qualche decina di migliaia di persone nel mondo, però ciascuna di queste decine di migliaia di persone nel mondo è pericolosa, in ciascuno di loro ci può essere in nuce uno sgozzatore eroe, e allora bisogna mobilitarsi, però bisogna mobilitarsi nel modo corretto. Questo è il punto, non spietato. Se Sarkozy mi chiede di essere spietato, io non capisco che cosa voglia dire. Se Sarkozy mi chiede di essere attento, di essere rigoroso, cominciando dal mio ambiente di lavoro, dal mio ambiente di studio, dal mio ambiente di vita, eccetera, eccetera, questo comincio a saperlo. Quindi intelligence, quindi infiltrazione, e queste sono faccende dei servizi. Ma fra noi e le comunità musulmane, il confronto franco, anche duro. Io al mio amico imam di Firenze, Zeddin, bravissimo medico palestinese, stimatissimo a Firenze, che parla perfettamente italiano con l'accento fiorentino, gli dirò: guarda, ti devi far vedere da tutti, costi quello che costi, fai il porta a porta. Purtroppo bisogna aggiungere una cosa, che in un certo senso è una scusante, e in un certo altro, paradossalmente, è un aggravante. Molti ormai sono i musulmani che hanno paura. Paura anche loro. Paura di esporsi. Allora, anche questo è umano. Intanto io ringrazio infinitamente il professor Franco Cardini di averci dedicato questo quarto d'ora con le sue opinioni. Noi adesso andiamo all'informazione stradale, poi con le vostre telefonate vi do qualche particolare che esce ancora sul Fatto dall'agenzia. La la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16.51, primi e 45 secondi. Si chiamava Jacques Hamel, l'84enne sacerdote che è stato sgozzato nella sua chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray in Normandia questa mattina. Il blitz delle forze dell'ordine ha abbattuto questi due francesi, perché sono di Rouen, i due islamici che hanno compiuto l'attentato. Uno di questi, dicono le prime agenzie, in realtà era già noto alle autorità di polizia con la lettera S, cioè schedato come soggetto a radicalizzazione e tentato dai siti che consultava di andare in Siria. Quindi esploderà per l'ennesima volta la polemica sul fatto che i controlli non riescono a star dietro a tutti coloro che pure vengono identificati guardandoli sui siti come esponenti pronti alla radicalizzazione, anzi con la radicalizzazione in corso, visto che pare che tentasse davvero di informarsi per andare in Siria. Ma questo dà l'idea della dimensione, veramente a più dimensioni della sicurezza che questo fenomeno ci espone. Io ho scritto oggi, chi è a Roma lo può leggere, chi è a Napoli lo può leggere, sul Mattino del Messaggero, un articolo dedicato alle risorse che noi spendiamo per la sicurezza. Noi abbiamo una vecchissima idea di sicurezza, spendiamo nel nostro paese solo l'1,6% tra forze di polizia, tribunali, e uno 0,8% del PIL per la funzione di difesa, e questo richiederebbe, ma non solo per noi, perché sono le stesse cifre per la funzione di sicurezza che spendono anche Francia e Germania, richiede inevitabilmente una moltiplicazione di questa montata di risorse, perché altrimenti non si può stare dietro a questa pluralità di dimensioni che il franchising di chiunque si rivolga a Daesh per compiere un attentato di questo tipo, in questa pluralità diversa di luoghi, può rappresentare per la vita e la sicurezza di milioni di noi tutti. Sentiamo come la pensano un po' di voi, tra voi ascoltatori che ci hanno chiamato. Cominciamo con Luca da Roma. Buongiorno, buongiorno. Sono Luca. Io vorrei fare comunque un paragone, cioè, purtroppo è vero che è il primo caso di un sacerdote italiano ucciso dai terroristi. Ora mi vengono in mente francese, due esempi. Francese, certo, sì. Scusi. Pensavo a Padre Santoro ucciso in Turchia, giusto, qualche anno fa. Giusto. E anche ai tre rabbini che furono uccisi uno o due anni fa a Gerusalemme. Giustissimo. Quindi, cioè, purtroppo quando colpisce noi, rimaniamo noi in quanto cattolici cristiani, diciamo, rimaniamo più colpiti. Però in realtà questo fenomeno di odio religioso che permea comunque il terrorismo islamico ha già colpito, cioè, gli israeliani vengono uccisi in quanto ebrei, anche se magari viene ucciso purtroppo l'intifada dei coltelli, di cui l'intifada dei coltelli, perché anche in questo caso è un'armata di coltello. Nella chiesa è stata trovata un'arma finta e dell'esplosivo a quanto pare, però l'intifada dei coltelli nasce e si sviluppa con Hamas in Israele, quindi è esattamente così. Naturalmente la simbologia di fede serve a rivestire l'ideologia del terrorismo, però sta di fatto che questa volta si colpisce una chiesa in Occidente e si uccide un prete in Occidente. Gianni da Treviso, come la pensa Gianni? Sì, buongiorno Giannino. Come la penso? Ascolti, mi attenderei, giornalista, suo ospite, diciamo, mi ha un po' anticipato, mi attenderei una presa di posizione seria contro questi atteggiamenti da parte dei musulmani moderati, ecco, questo mi aspetto. Lei sa Gianni che molti dicono: ma perché ci chiedete di farlo? Perché quando qualcuno di voi uccide qualcun altro mica vi dovete discolpare tutti? Questo è un po' un atteggiamento diffuso in molti degli islamici, che hanno paura a esporsi. Questo è il punto, ci ricordava il professor Cardini esattamente questo. Io credo invece che sarebbe necessario farlo. Naturalmente conta molto il tono con cui ci si rivolge loro, perché io penso che più stiamo attenti al tono, più riusciamo a individuare e a concentrare meglio le nostre risorse per sgominare e uccidere i veri terroristi. Più generalizziamo, più portiamo acqua ai pesci terroristi che vogliono nuotare, perché ci sono centinaia di migliaia di milioni di musulmani che a quel punto possono solidarizzare con loro. È molto delicato. Io vedo le dichiarazioni di alcuni politici, cui non voglio fare il nome, che stanno parlando di guerra di religione, adesso basta, buttiamo. Benissimo, questo per me è un po' fare il loro gioco, il che non significa sottovalutare in nulla il qaidismo, Daesh, il califfo, non significa in nulla non essere durissimi. Però bisogna stare molto attenti a non concedere sostegno, per così dire. E per questo dico, noi dobbiamo chiedere alla comunità islamica quello che dice lei, ma non dobbiamo accomunare tutti, perché sennò, ripeto, la reazione rischia di essere opposta, e questo secondo me è un rischio aggiuntivo che non correrei. Giordano, dalla provincia di Pistoia, come la pensa Giordano? Sì, buonasera Giannino. Dunque, ci sarebbero tante cose da dire, ma davanti a una persona di 80 anni uccisa in quel modo, francamente, le parole da scegliere è veramente difficile. Io penso che sia in una certa misura una forma, una guerra di religione, perché insomma qui c'è una religione contro un'altra, un'ideologia contro un'altra. Sarkozy sarebbe bene che stesse zitto, perché in passato ha fatto dei danni incalcolabili e tuttora bisognerebbe, non so nemmeno che pena bisognerebbe dargli per fargli scontare gli errori passati. Ma detto questo, se proprio c'è qualcuno che deve fare qualcosa, qui ci devono essere delle forze di intelligence a livello planetario, faccio un nome a caso, l'ONU, perché ha i mezzi per poterlo fare, per intervenire laddove è giusto e si deve fare e levare di mezzo questi Guardi, l'ONU non si occupa di intelligence tanto. Io penso che bisognerebbe mettere insieme le intelligence occidentali, comunque potenziare tantissimo i mezzi. Voi non avete idea quanto siamo arretrati su questo, perché spendiamo quattro soldi, inutile che ci illudiamo. È ovvio che i governi devono dire a tutti state tranquilli, però basta vedere quel che spendiamo per allargare le braccia, è veramente troppo poco. Mi dispiace, sono brutale nel dirlo, ma visti i numeri è così. Menik, che ci chiama da Cremona, prego. Buonasera. Buonasera. Ma l'ONU non fa niente, perché anche con veto di ONU l'America e tutto il mondo l'hanno bombardato la Serbia. Comunque l'ONU non, come se non esiste. Ma io vivo con i musulmani, sì. Però i musulmani, diciamo nostri musulmani, sì, europei, sì, sono proprio diversi, non sono uguali a quelli là. E come li trova? Però impaurite? No, è proprio quello. Loro non possono reagire perché hanno paura. Hanno paura. Ma ancora una cosa, io sono cristiano, però ortodosso. Sì. Durante la guerra in ex Jugoslavia, sapete quante chiese piene di gente? Altro che, piene. Ha ragione, certo. L'hanno bruciato i cattolici ortodossi e ortodossi a cattolici. Fa bene a ricordarlo, non perché è pochi anni fa. No, fa bene a ricordare che quella, la guerra in Europa, noi l'abbiamo avuta a metà degli anni 90 e l'abbiamo cancellata come se ci fosse stata secoli fa, ma non è così, non è affatto così, con stermini etnici, eh? Contrapposti. Grazie a voi tutti, continuate con Radio 24, appuntamento domani mattina alle 8:15 con me e Alessandro Minella, attenti a noi due.